con i vertigini. Ah, non soffro, anche bene. Se mai toccato me, sali su, perché c'era un palo che c'era due scaline, diciamo, lo chiamavano le scaline così, no? No, lì non ci salgo, manco morto. Anch'io non sono più quello di una volta. Visto che ti ho fatto vedere da voi, ci sono i tipi agganciati in punta, lì non c'è venuto però. lo so, Fra, lo so, chi soffre di vertigine è un casino, non sono cose belle, ma io ho visto una persona senza fare nome, cioè appoggiare la scala al tubo e salire in punta per cambiare la spirale, cioè una cosa allucinante. Un ragno. E vabbè, anche lui non fa niente, non soffre, però ci sono quelli che hanno praticamente il coso delle vertigini, quindi non fa. Qui un po' c'è Antonello Volentari che ha sentito il bip, avanti Antonello. Ciao, buonasera. Comunque io da te la verità non ci sei mai cosa visto. Questo è cosa visto. Meglio sotto che sopra. Ma sai, c'è anche il genere più rumo, aspetta Gianni. Ciao Antonello, ciao anche a te Luca. E dai, vi saluto che devo andare a portare il cane prima che piova e non ce la faccio più, dai. Non lo so come Claudio, piovendo stava. Vabbè, tutto a posto, portalo adesso però perché sta arrivando un'altra passata. Cazzarola. C'è allerta a mettersi dalle 6 di mattina di domani. Va bene, dai, ci sentiamo. Ho attaccato un'altra apparecchio, non so se ve ne siete resi conto. Penso che stia uscendo bene, dai. Ah sì, ha retto fino alle 6 di domani mattina. Via. E cosa hai preso? allerta meteo, ha detto Gianni, c'è allerta meteo, non arretto, arretto di veglia. Io poi mi sto arretto per la visione del mattino. È un bagnato Marsiglietta oggi. Passati sono i tempi che c'è la salmandiera la mattina. Tu anche non arretti più. Cazzo, c'è una risata, Antonio, è troppo forte. Ore di a 90 gradi, dopo lo vedi. E vabbè, Antu, quando ci avrai 61 anni come ce li ho io, le cose cambiano. Non è che sei sempre con la tua bandiera la mattina. Oh, Antu, io ne ho 46, ti posso dire che ti stanno già a scarseggiare. Sicuro. Sono sempre a tutta potenza i nomi. A me da Pompolio, sempre in Buruvedo, sempre in tira, è vero Pompo? Di birra. Sta facendo di tutto, guarda. Anche... Grazie amici frasi, qua. Ti piglio dopo le cinesi, guarda, non il giapponese. Guarda che già in tira. C'è lì, adesso... Pure, ma per la base. Muovo perché l'ho girato, che se lo metti... È già in tira, Va tutto da solo, in automatico. Visto vai. Invece per te. Oppo, ma la vai, apri il babai. Ma no, tranquillo, non ne ho febbre. Ah, secondo te? Sentiva, Seguro. Anche lui è come il collo, come Antonio Bombo. Anto, quanti anni hai, Anto? Io ho 36 anni. Ehi, sono 36 anni, camminavo a pancia a terra e non toccava, perché la cinta stava sempre puntata nel marciapiede. Beh, no, scusa, è normale che a quell'età uno va più di, cioè, va più di una persona più grande. E cioè, se non fosse così, guai. Ma Antonello non è piccolo. Antonello, 60 ne hai, 59, quanti anni hai? 57, ancora che so dire, si funziona e ha bisogno di affetto. 57, vabbè, io e Gianni siamo 61 oramai. Tu Fra, sei bello, quanti anni hai? Io 55. E Anna invece? Uno in più. 56, ah sì, invece Anna mia è 2 anni più grande di Anna. Stiamo diventando granditi tutti, dai. Quindi c'è il tempo della cibba. Vabbè. Tu 46 ne hai, cazzo. Luca sta andando per i 50. Senta, dicono a tempio, lo dicono. Poi da 50 in su vola. Che vero, amica, io manco a torto, ma ne sono, cazzo. Vai a portare un gai, vai, già ti difendo io, non ti preoccupare. Lo so, vabbè. Sono più piccolo, sono, e cosa vuoi fare? E vabbè, ma è normale che quando sei più giovane, cioè, si fa un po' di più, si fa. L'amore si fa, invece di farle, cioè, due volte alla settimana, se ne fa anche 4-5. Io come sto a me 4-5 gagliardi. Ah, tu comunque sei sempre arzillo, non ti preoccupare. Già, sempre 4-5. Cosa fai? Tu, io sono sincero, ma posso fare 4-5 gagliardi una settimana? Una voce, ma massimo due voci è niente. Vabbè. Quando rientro a casa mi vennero un bel voce, faccio lì 5 minuti, mamma mia. E allora vai che la io. Ah, vedi, a Roma muore il trumba, gente. Oh, io, se noi che sei giovane. Cosa dobbiamo sentire, cioè. Giovanotto, dai, va, che cosa deve uscire, se no non andava. Quanti anni ha tuo padre invece? Non si dicono queste cose, bisogna essere riservati. 59 anni c'ha babbo. 59? No, del 60 lui. 61. Del 61 è? Sì, ha. Pensavo avesse età mia, 10 anni. Vabbè. Ok, vediamo Luca se è rientrato. No? Sì, claro, non sta zivendo ultimamente. Non va bene? No, no, non sta zivendo, la rubi, no. Lo dirò io. E cosa vuoi che ti faccia? Purtroppo, tutti i miei racciacchi siamo. Kappa. Antone, cosa stai facendo? Senti. Che cazzo è sta cosa? Arriva, mi stavi chiamando, perché volevo la pedisvella. Ma non sai che picciamo la cucina di un garione, non c'è il bello. Aiuto, cioè, perché ne offre da bere? Qualcuno ce l'ha neanche da bere in casa. Avete parlato in quattro, cosa cra? E c'è il Covid. Pomponi è a bere a casa. Questo c'è un pomponi a bere a casa, manco il supermercato che ha. Pomponi è a bere. Tanto ne faccio ridi a tu, da non ridi mi faccio cribba. Perifè! Forse! Dimmi! Ah, pomponi mi di frasi con i zeri, ce ne ha da bere! E secondo me non abbi! Sto già vita! Mitico pomponi! Sì, ragazzi, è allucinante! Antonio, fra, si chiama Bombolino, perché ride come a Bombolo, te lo ricordi a Bombolo, quello che faceva i film con Monnetta, uscì e ride. Che ti chiama dei figoiti? Ma che arrego pure le bombole. No, troppo mi guardo tu sì che vale, se la finale c'è. La che è la partita, Cla? La partita della Juventus. Nell'Inter? Nell'Inter era per mezza, la Juventus era già giocata e ha pareggiato 1-1 a Benevento, qua era in Galabria, ragazzi. Vado qui a guardarmi bene, se no poi mi fa male se non la guardo. Avete parlato in 10. Chi è che ha giocato col Benevento? Vai già, vai che piove, cazzo, vai. La Juventus ha giocato un po' con le scene qua. Contro il Benevento, a Benevento, ha pareggiato 1-1. 1-1. Adesso c'è l'Inter, per mezzo. Una sarà. Ma sono arrivato a ballaccia, sicuramente, la aggregata sarà. La parola è grave, il campionato quest'anno, è tutto malmesso, tutto, partono in quarta, poi si bloccano anche lì, c'è uno squadrone, non sta giocando bene, c'è compito. compiere, non più le furie. Il Milan, hai visto, grandissimo il campionato, è andato a pareggiare il Champion. C'è questa squadra che non volesse capire quest'anno, forse sarà la pandemia, sarà la preparazione tecnica che hanno fatto, non lo so. Chi la banda è tuya? Cosa? A chi la banda è tuya? La mia Muro. Ah, la pandemia. La pandemia. E ci vedessi, beh. Ciao Gianni, comunque, dai, va a portare a Tyson, va. Pompo! Gianni. Mi vuoi sarà offeso. Non mi ha telefono, non hai sentito? Hai trasferito sul mio telefono. Il telefono era, non era il Gariano. Ma se va il Gariano, va a buttare il telefono, nella porta la scheda. Sono la porta della girandola del Gariano. Sono la girandola. Quando mi si ha la ringa, boh, fotti due. Ah no, tu te la vendi. Via. Vabbè. Cosa avete a Bomboli, porti le bombole? Non sappiamo il porti le bombole, sì. Che buona sera, vuoi arrivare una pomponio? Ma cosa non lo sapeva, Franco? Ah, bombo all'ossigeno. Dimmi, Antonè. Ma sai, attimino, ma io ho chiamato a Pietro Claudio, 2 minuti. Ho capito, Antonè, aspetta 2 minuti. Aspetta, stiamo sentendo. Aspetta. Chiama. Vabbè, chiama tu, fegato. A me ti sei sacrato, ok. Quello che vabbè, quello che vuoi, dai. Accendi quello che vuoi, ok. Vabbè, fatti dire un attimo, sono 27 e facciamo le torre su la tappetta, per 7 minuti. Io sono 27, sì. Sono 29, sono 27, è che si avvia, no? Scusa. No, canale 10. Di che sta parlando? Non di che parlo, cazzo. Che sto calo mi impicca la sera. Ehi, no. Cosa cazzo si intende? A questo punto. Ricordata. No, 27. Tu mi testa con una di pezzino. Oh, boh. Ehi, ma qui non la piccola cosa la voglio con la colantina magnetica, quella, se già tu vuoi dire una. Ma lo prendo io. Accendilo, va a fa cucchia. Accendilo, faccio su canale 10. Boh. Carità. Mi piglia tutto, cazzo, ho fatto qui mi piglia. Cosa cazzo hai fatto? L'uomo che la fa la pezza si è lasciato. Fammi capire, non ho capito niente, ma con chi stai parlando al telefono? Un po' di vela. Con chi è che sto parlando? Un amico. Aspetta, vediamo se riesce a autorizzare l'apparato che gli ho dato io. Ma cosa entro io? Un amico tuo, io non lo conosco. Cosa entro io? C'è Claudio, ti sente Claudio. Stai caro Savana, aspetta 2 minuti. Tu lo senti, io no. Cioè, tutti e due lo sentiamo, gli altri non lo so. Adesso vediamo un po'. Vicino a noi, boh, non lo so. Ehi, appunto per quello. Ma, Pompon, ma quel microfono nel dash l'hai vinto? Ho capito. Il microfono nel dash l'hai vinto. Ho capito le facce. Dacciamo stare. Ha detto Luca, se quel microfono l'hai vinto, quel fustino del dash. No, perché? Perché esco male. Male. Malissimo. Adesso ti ascolto un colpo, sei tutto bambambambambam, si compagni nuda di suidi. Aspetta. Un po', ma niente da bere. Aspetta, bevi quello, aspetta un attimino, 2 secondi. Guarda, se c'è da bere mi faccio un salto. Passa qua. Passa a prendere Antonio, poi mi tento Claudio da 2 passi. Simone già batte, è a casa Duia. Ci bevo una birretta in 2, in 3. Anche Franco, vieni Franco. Saliamo in moto. A posto delle bombole, mi ci mettiamo. Aiuto, dai, sono capito il burro. Salgo via a Milano e prendiamo la strada, io, e mi muoio tutto innanzo. Un po' come pioggia, ma... Posso venire a capatoio, sì? Tutti in strada? Oh, il Fiat strada. Quale pantofole venga? Ah, è la capatoio, posso venire, non ha di giubbotte, loghi. Aspetta un secondo. Prova un po'. Prova lei a parlare. E se ti basta, se prova a parlare, due secondi. Prova adesso. Parla con uno. No, no, esce. Vabbè, va, si arrangia con questo cosa si vuole, eh. Marizia, un po' di drudio, ma falisci più bello, eh. Oh, raga, dai, io vi saluto, tanto che vado a qui. Un abbraccio a tutti, ciao Franco, Antonio, Antonello, Luca e chiunque sia in ascolto qua su 10, va, sono almeno 20. Ci sentiamo, ragazzi, piacere avervi ascoltato, a domani, se coincide, se no più tardi. Ok, ciao, ciao a tutti. Ciao Cla. Ciao Cla, un abbraccio. Ciao, ciao, grazie a tutti, ciao Tony. Ciao, ciao. Ma, ok, ciao Cla, ci risentiamo. Avanti, chi era? Antonio, Perisvella, Antonio, Gianni, a tutti, dai, vada a guardarmi a... Tussi che vale, buonanotte, a domani, ciao, riprendi il fra, ciao. E anch'io vado a vedermi la partita, dai, se ce la fa giocare quest'Inter. Un abbraccio a tutti, saluto anche il nuovo entrato. E lo rilancio, avanti Tony. Carva, salutare a tutti, ben sentiti, buon collettivo, buona partita, buon speech and rare, è stato già appuntato alla finale. Bene, bene, un casino si vede. Antonello, è caduto. Antonio. Magari non si capisce bene, ma magari vuole un pochettino regolato quel microfono. Aspetta due secondi, prova a parlare Pietro, due minuti. Che stai dicendo, oh Ali? C'è Pietro che c'ha un portatile e sta parlando, due minuti, aspetta due minuti e facciamo due minuti. Prova a parlare Pietro. Io sono a telefono, prova a parlare adesso. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, mi senti a te? Senti tutto lì, dai. Pino. Ma dai, allora io vi saluto, se non riprende nessuno vi saluto, ce la risentiamo domani, dai. Una bombetta. C'è un problema a casa dell'antenna, qua. Qua. Prova un po'. Prova un po'. Sì, Antone. Avanti. Aspetta altri due secondi, se non capisco un capo di la verità. Antonio che ti sta parlando sopra, prova a parlare tu, cosa mi si rende conto, parla due secondi. Prova. Prova adesso, vediamo un po', ma tu non parlare sopra, forse non si capisce un capo. Sì, ma cosa si vende? Allora è inutile. Ok, dai, io ti saluto, dai, saluto a tutti e chiudo. Sono stanchissimo, cazzo, sta a riprendi. Dai, buonanotte, Ale, buonanotte a tutti quelli che ci sono nel canale. Ciao, ciao. Antonio, mi senti, fatto? Adesso ti sento, 6.79, mi fai. A me stai dicendo? Sì, prova. No, sto dicendo Antonio. Sì, chi è? Guardi! Pietro, fai il passaggio! Pietro, parla! 1-2-3, 2-3, 1-2-3, 9-20, sì, qua! Sì, ti ho sentito, 9-20, sì! Ma sì, adesso! E capa, qua sei 9, sì! Chi è, Ale? È Pietro, con l'amico di poco fa! Hai capito? Se parli sopra, è lui che ha capito la fanculo a un certo punto, hai capito? Quindi Pietro c'ha il barattolo mio e sembra magnetica, hai capito? Comunque adesso lo senti, sì, a Canada, lui è lì. Io lo sento, sì, ma deve entrare quando al momento giusto deve entrare, Oli. Ok, già ti sento, già, sei 9-9-10 qua, sì. Che? Parla. Mi senti? Mi senti? Mi senti adesso? Che ti sentiamo, avanti. Ciao Pietro, piacere, molto lieto. E capo, da questa parte, Antonio Bombo, da questa parte. Da Sassari, di zona Corso Vico. Qua invece è da Caniga. Caniga. Ambiente Italia. Italia. E capo, capo, no, arriva abbastanza bene. Io forte ti sento, tu forte mi senti in quella zona. Capito? Pietro. Antonio. E a me mi senti? Sì. Come niente, cosa è stato incombinato? Sentivi, fino a 2 secondi fa sentivi che ha non sentiti nessuno. Non è possibile che ha fatto ha toccato lo squelch, mette lo squelch a zero. Lui qua da dentro per la baracchino e anche con Femmi, quindi a un certo punto grazie a Dio è ora e scappa. Cosa ha fatto Antonello? Ha girato vabbè, è nuovo, quindi ha trovato magari lo specchio, cosa del genere, quindi non ci sentiva. No, già, in questa zona già arrivi, dai, a Puglia che arrivi. E poi a casa mia non è tanto lontano da Canga. Sì, anche adesso so che arrivo a Corso Vico, dove sei tu, ma no, almeno. Capo, no, qua già arrivi, 9.10 arrivi, abbondante. La radio è 5, la radio. A voglia che arrivi, io forte ti arrivo in quella zona. Sì, a bomba me la arrivi qua, qui è perfetto, perfetto. Dai, io vi devo salutare, dai, ce la risentiamo le prossime. Ciao Antonio, dai, ce la risentiamo. Ciao di nuovo anche a voi, anche a te, grazie. Dai, sono rientrato un attimino, chi sei? Pietro? Sì, sono Pietro, piacere. Ciao, Santiago Nuovo per Radio 5, arrivi qua, dai, giusto per far capire Antonello, non c'è problema. Ciao Antonio. Ciao Pietro, ho piacere averti ascoltato, Claudio Sparviero da Sassari, sono vicino a casa di Antonello. Devo andare a cenare, ciao. Va bene, ciao, buona cena. Grazie anche a te, Io a te, visto anche i cambi di qua, non c'è problema. Se c'è l'apparato, il discorso è quello. C'è poco da sbagliare. Adesso volevo prendere, infatti volevo prendere quelli piccolini che prendevano anche questo, capito? Questo, capito. Se c'erano in giro. Perché così me l'avrei piazzato in macchina, gli altri però mi servono più portatili, perché io sono più a portatile, capito? Ma gli altri sono una cosa differente, totalmente differente dalla cosa della 27, questo è poco ma sicuro, già lo sai anche tu. Beh, vedi adesso quanto viene, adesso venite a bomba, anche gli altri due colleghi sono venuti benissimo, guarda. Ma te l'ho detto io, per me è meglio della, degli altri, della frequenza che ci sono finora, te l'ho anche detto, senza aver portato quegli apparati, lo sai anche tu. Vedi, questi qua, cazzo, vedi, questi qui sono belli, sono, perché riesci a parlare con qualcuno anche se sei a fondo. A volte a me, adesso bisogna provarlo, perché a me a volte mi mettono in aperta campagna, capito? Quindi sicuramente prenderanno lo stesso a bomba, a Florina, capito, mi mettono. Adesso ad esempio sono alla cava di Muro, sono da Parigi che non ci vado. se riesco ad andare alla cava di muro, se ti avverto, così vediamo di riuscire a prendere questo baracchino qua, capito? Se mi danno anche la macchina di servizio, me lo metto nella macchina di servizio, tanto guarda se accedo tutta la notte. Comunque, cava di muro c'è meglio che mettere quello che c'è adesso, perché il PMR non arriva via muro, questo poco va sicuro, hai capito? Quindi con il più quello della 27 che sei più tranquillo. Sì, adesso mi faccio una cosa, adesso cerco di telefono, vabbè adesso non adesso perché state perché mi picchiano direttamente. Domani mattina o dopodomani cerco di telefonare a Pietro, il collega delle guardie giuste. Così almeno vedo un pochettino, mi faccio dare la, che cosa c'è di banda, capito? Di questi audio uscita da loro, perché c'hanno le radio e parlano, così vedo un pochettino cosa fare. E vabbè, solo quello già c'è problema, non ti preoccupare per quello. Benissimo Antonello, adesso mi metto il PRM qua e mi carico anche l'altro, mi carico. Così se riesco a tenere che poi sono dentro quel gabbiotto, adesso la macchina l'ho dovuta mettere un pochettino distante, adesso lui stacco qui e provo a mettere quel PRM, vediamo un pochettino, a 7, e vedo un po', perché sennò è un casino, guarda. Lì per il PRM lo sai, appunto su vostro, non piglia un tubo, ma quello va fuori, forse anch'io quello, non c'è più che fare. Sì, adesso faccio una cosa, infatti adesso se mi danno la macchina, è che questi giorni non me la danno, ma se mi danno la macchina anche facendo la Porto Torres, ma me lo prendo e me lo piace, sempre se c'ha la il coso della CD-Siga, ricapito. E per quello non si preoccupare, non c'è problema per quello. No, facciamo una cosa, se no parliamo in PRM. Lui ragazzi, prima quando eravamo a Tentino, te lo ricordi quanto ci parlavamo? Con nome nativo di Tex, te lo ricordi? Me lo ricordo. A voi devo uscire bene. A voi. E lì parlavo con te, con Imma, la ricordi, poi c'erano, erano più di una ventina erano, ogni tanto collegati, ogni tanto uno si collegava, l'altro se ne andava a mangiare, l'altro fuoriusciva, capito? Sì, a voi ne mi ricordo. Roba vecchia non lo sai. Tutto passo, le questioni sono diverse, quindi boh, CD, a un certo punto quello che ci sono bisogna gestirli a un certo punto. Beh, quelli già erano bei tempi, secondo me, quelli già erano bei tempi veramente. Comunque ci siamo divertiti, lì ero 8 mesi fermo lì, capito? Ah, voglio già me lo ricordo. Ah, voglio. Ti faccio schiettare. Sì, avanti, buonasera. Ti faccio squillare un telefono. Ho capito nulla. Ti faccio squillare un telefono. Ti faccio schiettare. Ah, basta, ecco, che non capisco la fanculo. Ecco, non si capisce niente, non si capisce qualche parola, ma ho andato. Faccio da bravi. Sì, tu sì, ciao, buonasera. Ciao, Popozzi. Sto provato, ecco, era. E mi sta guardando, tutto. E mi sento che nelle cuffie. Troppo veloce, mettilo più dentro, appena più dentro mettilo. No, non ne metto niente, non mi piace. Vabbè, mettilo così, come vuoi ti bisogna. Vai. Antonè, adesso vi lascio e chiudo col 27, chiudo, ok? Perché devo lasciare la macchina, devo andare per la postazione di qualche poco. Sì, già sono qua, nel caso già sono qua, che preoccupare. bene, intanto mi attacco il DRM direttamente al 7, ok. Saluti a tutti, a chi è in ascolto. Qua c'è acceso anche il DMR, non ti preoccupare, sul canale 7. Nel caso chiama e non c'è problema. Oh yeah. Oh yeah. Vabbè, tu riconosci, tu riconosci bene, riconosci. Io no, io sono da parecchio che non parlo di nome così. Ma non c'è mai nessuno lì. No, non c'è nessuno. Va bene, a dopo, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ciao. 446081. Non c'è nessuno. Chi va? Sono acceso, oh, che aspetta, non c'è nessuno. Maria Co. Cosa penso ce l'ha da Dio? Ti chiede ce l'ha da Dio? Manuele, sfuggito. Avanti, avanti, Manuele. Attenzione, cingombone. Sei domani sarà un edificio con un mobile così di lavoro. Penso, ricordo che abbia apparato due minuti, eh?